che sei lontana, madre che sei vicina, sempre nel mio cuore, bella come un fiore. Madre che mi sorprendi così, mentre io mi scordo dei tuoi anni, e con allegria tu sì, mi rispondi senza ritroverarmi, no.